abbiamo qualche problema tecnico questa sera. Abbiamo qualche problema tecnico, come avete potuto notare. Siamo praticamente senza musica, è una bellissima cosa, abbiamo scordato le pennette a casa, quindi ci freghiamo. Va bene, dunque non ci resta che darvi il benvenuto alla nuova puntata di oggi di Indie Radio, di questo programma di informazione indipendente che potete ascoltare ogni giovedì alle ore 18 circa su Fuori Onda Radio. Oggi parleremo di vari argomenti, ora cerchiamo anche di risolvere questo fattore musica, credo che non ci riusciremo mai, però insomma ci proviamo, ma no, mi sa che non ce la faremo mai. E va bene, niente musica, insomma, che bello. Un programma silenzioso quest'oggi, va bene. Comunque, cominciamo a parlare dei primi argomenti di oggi. Parliamo in primo luogo di questa legge rifiuti zero, di questa proposta di legge rifiuti zero che è partita come raccolta firme negli scorsi giorni. Infatti il 14 aprile scorso in tutta Italia c'è stato questo Firma Day in tutta la nazione, vive le nazioni, in tutta la nazione, quindi c'è stato, che brutta cosa tutta la nazione, in tutta Italia, in varie città ci sono stati dei banchetti in cui si sono raccolte queste firme per questa proposta di legge. Anche in Calabria, soprattutto a Cosenza, a Reggio, il comitato che è sorto negli scorsi mesi per promuovere questa iniziativa popolare ha raccolto delle firme, soprattutto ha parlato con la gente e ha spiegato insomma le ragioni di questa proposta di legge. Una proposta di legge che in Calabria comunque viaggia anche insieme a un'altra proposta di legge di iniziativa popolare, però questa volta regionale, che riguarda invece la gestione delle acque. Ma procediamo con ordine, parliamo in primo luogo di questa raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare rifiuti zero. In poche parole, questa proposta di legge si configura soprattutto come una sorta di cronoprogramma che dovrebbe portare nel corso degli anni a una sensibile riduzione della produzione dei rifiuti e quindi andare effettivamente verso quella che è il rifiuto zero. Ovviamente non è molto semplice a volte spiegare questa dinamica, questa idea che spesso è messa in pratica comunque alle popolazioni italiane che soprattutto in zone come la Calabria sono colpite da un'emergenza rifiuti sempre più allucinante, è il caso di dirlo. Infatti basta andare, insomma, come diciamo spesso, in un qualsiasi paese della regione per rendersi conto di come i cumuli della spazzatura si aumentino sempre di più. E in Calabria in realtà c'è stato questo passaggio importante, cioè si è avuto il passaggio delle competenze dall'ufficio del commissario all'emergenza rifiuti alla regione Calabria e quindi teoricamente anche ai sindaci, però in Calabria, insomma, la regione Calabria soprattutto per mezzo del suo assessore ambientale all'ambiente Pugliano, insomma, propone questa un nuovo programma per affrontare la questione rifiuti che comunque si pone in netto contrasto sicuramente con quella che è la proposta di iniziativa popolare, ma è in contrasto con il volere di molti sindaci, di gran parte della cittadinanza che potremmo definire attiva, di gran parte comunque della cittadinanza che appunto chiede invece la risoluzione del problema secondo canoni compatibili con una qualità della vita buona, diciamo, o comunque accettabile. Quindi in Calabria vediamo ancora una volta che si parla di costruire mega impianti, mega centrali, insomma, per smaltire i rifiuti, che in realtà si fondano ancora una volta sulla raccolta indifferenziata fondamentalmente. Quindi da un lato nella regione Calabria si parla di costruire un grande impianto nella provincia di Cosenza, di ampliare quello di Gioia, di costruire un altro impianto a Reggio Calabria, quindi queste sarebbero le soluzioni della regione Calabria. Invece questa proposta di iniziativa popolare, che ripetiamo si sviluppa a livello nazionale, parla di ben altra soluzione, indica un'altra strada del tutto diversa da quella indicata da quella obsoleta e ormai ormai ampiamente provata dai fatti come negativa. La proposta di rifiuti zero, quindi, parla di ridurre la produzione dei rifiuti, e questo chiaramente si può fare soltanto invertendo la rotta di quella che è l'industrializzazione odierna, un sistema produttivo, quello italiano, ma non solo, che punta ad una che punta soprattutto ad un aumento esponenziale dei rifiuti. Basti pensare, no, a quelle che sono i vari prodotti anche alimentari che vengono prodotti, confezionati attraverso un grande dispendio di energie e di materiali. Invece con questa proposta rifiuti zero fondamentalmente si tende a incidere sulla produzione dei rifiuti a partire dalla loro origine. Quindi si immagina qualcosa di possibile comunque, come appunto la riduzione dei rifiuti attraverso una riduzione degli stessi. Basti pensare per esempio alla questione del vetro: oggi in Italia sempre meno viene utilizzato il vetro, o quello che viene utilizzato non viene poi riciclato, e invece con questa proposta si imporrebbe alle aziende produttrici di riciclare il vetro e quindi di fare quello che si faceva una volta, ovvero il vuoto a rendere, ovvero si producono 10 bottiglie di birra, per esempio, e il vetro vuoto poi ritorna all'azienda che lo riutilizza, chiaramente dopo averlo sterilizzato, ovviamente. E questa era una pratica che almeno 20 anni fa era molto diffusa in Italia, e invece oggi vediamo questo uso e getta anche del vetro, anche di materiali che possono essere tranquillamente riciclati, che non fa altro che aumentare la produzione di spazzatura. Quindi questa proposta di rifiuti e questa proposta di legge popolare è certamente importante, soprattutto perché si riesce in questo modo a entrare in contatto con la gente che si vede invasa dai rifiuti e non sa effettivamente quale soluzione sia a volte utile approntare, e quindi molte volte non una cattiva informazione non permette alla gente di avere gli strumenti necessari per prendere delle decisioni. E quindi fondamentalmente questa iniziativa di raccolta firme serve a dare la possibilità alla gente di conoscere il problema e di sapere quali sono le possibili soluzioni. Molti cittadini, molte persone chiaramente conoscono già il problema, sono già sensibilizzate, ma questo non basta. Bisogna comunque ricordare che è necessario in primo luogo favorire una partecipazione popolare alle decisioni e non dunque accettare quello che viene imposto dall'alto, un po' come sta facendo la Regione Calabria, e che impone dall'alto questo piano di rifiuti. Ha già emanato delle linee guida che appunto prevedono, come dicevamo, la costruzione di mega impianti a Reggio Calabria e a Cosenza, e l'ampliamento di quello di Gioia, ma in ogni caso non è specificato da nessuna parte. Veramente abbiamo letto con attenzione, ma non è specificato da nessuna parte in queste idee guida che sono state pubblicate sul sito della Regione Calabria. Non è scritto da nessuna parte che è prevista una partecipazione popolare, e questo elemento, questa grave mancanza della Regione Calabria certamente non può essere intesa come un elemento positivo. E parlando di partecipazione, però, vogliamo anche ricordare che in molte città calabresi, oltre alla raccolta firme per i rifiuti zero, continua anche un'altra raccolta firme, quella cioè per una legge di iniziativa popolare regionale per la ripubblicizzazione dell'acqua. Infatti sappiamo molto bene che il vittorioso referendum che parlava di pubblicizzazione dell'acqua è stato fondamentalmente disatteso dallo Stato italiano, e in particolare nella Regione Calabria esiste un'azienda, la Sorical, che è un misto tra pubblico e privato, ma che chiaramente funziona come un'azienda privata proprio per la sua natura, e quindi mira al profitto e non all'utile della popolazione. Di conseguenza si propone questa legge di iniziativa popolare regionale che già da qualche tempo, insomma, è presente nelle piazze calabresi. Vediamo che cosa succederà dunque con queste proposte di legge di iniziativa popolare, ma ripetiamo, è importante certamente avviare una battaglia legislativa, ma è altrettanto importante, e anzi al nostro modo di vedere è ancora più importante, avviare una campagna di sensibilizzazione e di informazione riguardo a questi temi importanti, temi dunque dell'ambiente, temi dell'acqua, che chiaramente non possono che andare di pari passo con un'altra riflessione, ovvero basta pensare a come nella regione, ma in tutta Italia fondamentalmente, la questione ambiente è strettamente legata ad altre riflessioni, ad altre questioni, in primo luogo gli interessi privati che il più delle volte vanno a confliggere con quelli che sono gli interessi della popolazione. Quindi bisogna comunque cercare di ripubblicizzare la gestione dell'ambiente e quindi dei rifiuti e quindi dell'acqua. Ci sono molte persone che cercano di fare tutto ciò, ci sono molte associazioni, ne parliamo spesso, dell'RDT, della Rete di Difesa del Territorio, ma anche ricordiamo il Comitato Bruno Arcuri. Ma ricordiamo anche un'altra associazione che in questi giorni ha subito veramente un gravissimo attacco, e parliamo dell'associazione delle serre che si chiama Il Brigante, un'associazione che da sempre si batte per una questione veramente molto grave, cioè quella relativa alla diga dell'Alaco. Infatti in questa situazione, in questa questione, c'è una diga che ha creato un bacino artificiale e che viene utilizzato per fornire acqua a numerose persone del Vibonese, a numerosi cittadini del Vibonese, ma questa diga, questa acqua è da tempo inquinata, basta aprire fondamentalmente, se ce ne rendiamo conto facilmente, basta aprire un qualsiasi rubinetto del Vibonese per vedere magari acqua marrone o maleodorante, un'acqua che certamente non è potabile. Quindi questa associazione, l'associazione Il Brigante, da tempo si cerca di effettuare delle documentazioni, effettua delle denunce circa questa grave situazione dell'Alaco, c'è stata anche ultimamente una grande manifestazione, però questa associazione, Il Brigante, ultimamente ha subito davvero una inquietante minaccia. Alla sede dell'associazione infatti è stata rinvenuta una testa di pecora tagliata. È un chiaro avvertimento questo di stampo evidentemente mafioso, che la dice lunga su che cosa significa oggi condurre in Calabria battaglie ambientali. Significa dunque scontrarsi con una mentalità, con un agire chiaramente mafioso. Significa cercare di difendere le proprie vite, le vite di tutti fondamentalmente, anche di chi magari è interessato a costruire discariche o a dare acqua avvelenata alla gente. Sì, perché in genere queste persone poi vivono negli stessi territori interessati da queste sventure. E quindi in realtà non si capisce davvero per quale motivo si continua a ostacolare la difesa del territorio. Se non L'unica spiegazione che possiamo darci da questi microfoni è che alcune persone sono accecate dal desiderio di accumulare denaro e di accumulare ricchezza, di accumulare potere, ma non si rendono conto che così facendo distruggono le loro vite e quelle dei loro figli, se mai ne hanno o se mai tengono alla loro esistenza. E quindi esprimiamo anche da questi microfoni tutta la nostra solidarietà per l'associazione Il Brigante, che ha subito un ennesimo, perché non è il primo, attacco, un'ennesima minaccia. Quindi occorre continuare su questa strada. Significa che l'associazione Il Brigante sta certamente conducendo una battaglia importante e fondamentale per la difesa dei territori e delle vite di tutti quanti noi. Bene, sono veramente tanti minuti che stiamo parlando e ci rendiamo conto di non tenere bene un filo logico in questa discussione, però ripetiamo, abbiamo avuto dei seri problemi tecnici. Abbiamo scordato un cavo, abbiamo scordato le penne USB, ma che dobbiamo dirvi, il caldo di questi giorni e anche tanto altro, insomma, hanno un po' fiaccato la nostra tempra e di conseguenza dimentichiamo tutto in giro. Vabbè, ci perdonerete, speriamo bene, insomma, che vi dobbiamo dire. Intanto vogliamo parlarvi anche di un altro argomento, di un'altra questione che, se vogliamo, è anche legata alla difesa dei territori e soprattutto in questo caso anche alle scelte edilizie e all'urbanistica. E parliamo dunque di quello che accadrà il 24 aprile prossimo a Cosenza, la data nella quale verrà inaugurato il nuovo auditorium popolare. Bene, già dirla così, inaugurato il nuovo auditorium popolare, magari potrebbe rimandare alla mente qualche immagine, diciamo, per noi poco felice, tipo, che ne so, inaugurazioni ufficiali di sindaci che inaugurano, non è niente di tutto ciò. Infatti l'auditorium popolare sorge in un'area ben specifica, cioè l'area dell'ex officina delle ferrovie calabro-lucane, e qui, come magari qualcuno saprà, sorgono tutta una serie di associazioni, di centri sociali che hanno occupato e restituito a usi civici, è il caso di dirlo, quest'area che altrimenti era abbandonata e che probabilmente sarebbe stata cementificata. E invece ci sono state una serie di battaglie anche significative che si sono scontrate anche con la volontà delle ferrovie, per esempio, di sgomberare l'area. E questo pericolo è stato scongiurato e si è avuta anche la bonifica dell'area che era circondata da Eternit. Questa bonifica dunque permette di vivere anche il posto con maggiore sicurezza e speriamo che comunque quest'area diventi sempre più frequentata da tutti i cittadini di Cosenza e non solo. Speriamo dunque che questo spazio diventi sempre più punto di riferimento e di incontro per tutti e tutte. Comunque questo auditorium popolare che nasce soprattutto grazie ad alcune realtà, nasce comunque dalla volontà di avere uno spazio comune, collettivo, una casa di tutti i cittadini, di tutti gli abitanti di Cosenza. Infatti negli anni scorsi certamente questa esigenza magari era anche minore perché c'erano più spazi pubblici, ma mano a mano abbiamo assistito nel corso degli anni a una scellerata politica culturale che ha privatizzato molti spazi. Per esempio basti pensare all'ex deposito ferroviario che ora è diventato semplicemente un bar, un bene pubblico dunque che viene affidato a un privato che vi costruisce un bar. Ci devono spiegare ancora la valenza culturale di questa operazione, e questo grazie alla vecchia amministrazione Perugini, ma anche altri luoghi della città sono stati svuotati di significato. Pensiamo per esempio alla Casa delle Culture, che ormai è praticamente vuota, ma anche la Città dei Ragazzi, che ormai insomma ha vissuto veramente momenti molto tristi, malgrado insomma si possano dire diverse cose su varie strutture, comunque erano pur sempre dei luoghi di socialità, e oggi invece stanno diventando dei luoghi chiusi, abbandonati o privatizzati. E quindi la volontà popolare, la volontà di alcune persone che operano nel campo della cultura, della socialità, della resistenza, è stata quella proprio di creare questo spazio all'interno di quest'area. Dunque c'era un grande capannone che era ancora semi-abbandonato, è stato ripristinato grazie all'impegno e al lavoro gratuito di molte persone. E già durante la scorsa fiera a Rammersa, il 19 marzo scorso, questo spazio era stato più o meno ripristinato, ma oggi verrà totalmente inaugurato appunto il 24 con una serie di iniziative culturali, il concerto della banda Bassotti, a seguire un DJ set di Zulu, e poi vabbè altre iniziative di carattere teatrale e anche un incontro dibattito che si avrà proprio il 24 pomeriggio all'interno di questo spazio. Uno spazio che dunque vuole essere aperto a tutti, che vuole essere la casa di tutti e di tutte, proprio in relazione a questa spinta a privatizzare sempre di più gli spazi pubblici in città. Un vero spazio pubblico dunque che speriamo possa crescere sempre di più. Quindi non ci resta che aspettare tutti e tutte il 24 aprile prossimo all'area dell'ex officina delle ferrovie della Calabria, che si trova tra via Popilia e viale Parco. Quindi ci sarà questo dibattito, questi incontri, queste iniziative culturali che appunto saranno poi seguite nel corso dei mesi da altre iniziative importanti. Ricordiamo per esempio l'HAC Meeting, che si svolgerà dal 7 al 9 giugno e che avrà luogo proprio nell'area dell'ex officina delle ferrovie calabro-lucane, che utilizzerà fra gli altri spazi anche questo dell'auditorium, uno spazio dobbiamo dire molto grande che grazie, come dicevo, ai fondi non pubblici, non amministrativi, ma ai contributi volontari degli abitanti di Cosenza, è stato appunto ripristinato. E poi vogliamo anche ricordarvi un altro importante momento: il 25, il 26 e il 27, infatti, ci sarà la riapertura del centro sociale Angelina Cartella. Possiamo davvero stabilire forse una sorta di paragone, di filo conduttore: il 24 a Cosenza a riconquistare uno spazio, il 25, il 26 e il 27 a Reggio Calabria per riconquistare un altro spazio. Infatti voi sapete bene che lo scorso anno il centro sociale Angelina Cartella, un centro sociale divenuto nel corso degli anni un punto di riferimento per tutta la regione, ma non solo per la regione Calabria, dobbiamo dirlo, è stato dato alle fiamme. Dopo una serie di attentati, di intimidazioni che si seguivano nel corso degli anni, ebbene, l'anno scorso il centro sociale Angelina Cartella è stato dato alle fiamme, c'è stata poi una grande manifestazione, c'è stata dunque la volontà popolare di riaprire questo spazio, però anche dei cavilli burocratici, una delle istituzioni che non sempre sono, come dire, accoglienti, aperte e favorevoli alla pubblicità degli spazi, hanno fatto sì che ancora oggi il centro sociale sia chiuso. E dunque è necessario riappropriarsi dal basso di questo importantissimo luogo di incontro e di confronto, e di conseguenza ci sarà questa 3 giorni nella quale ci saranno dei lavori, degli incontri, dei dibattiti, tanta musica e soprattutto tanta riflessione, e la volontà da parte di tutti e tutte le persone che andranno lì a Reggio Calabria a ripristinare il cartello per rifarlo, come si diceva l'anno scorso, più grande e più bello di prima. Anche in questo caso possiamo riflettere su alcuni dati. Gli spazi pubblici, gli spazi collettivi fanno sempre più paura, perché sono luoghi di confronto, sono luoghi nei quali magari vengono elaborate tante idee, tante strategie, dove si parla di ambiente, dove si parla di lavoro, di socialità altra, dove non c'è spazio dunque per il privato che specula, ma dove c'è invece apertura mentale e confronto. Ebbene, questi spazi probabilmente danno molto fastidio e magari fanno anche, come dire, sono anche appetibili rispetto a una resa privata degli stessi, a una speculazione privata magari. E quindi vari sono i motivi per i quali il centro sociale sarà stato dato alle fiamme, ma unica è la volontà di ripristinarlo più grande e più bello di prima, perché è veramente necessario avere a Reggio, avere in tutta la Calabria dei centri sociali, degli spazi occupati che vivono e lottano. Non a caso infatti anche noi qui viviamo in quest'aula occupata, è la P2 dell'Università della Calabria. Ma parlando di spazi sociali in Calabria, dobbiamo ricordare anche un altro vile attacco subito dall'LSA, dall'ex palestra occupata di Lamezia Terme, e che negli scorsi giorni è stata vittima di uno stupido gesto. Alcune persone che probabilmente non avevano niente di meglio da fare sono andate armate di bombolette a fare delle scritte fasciste, insomma, in questo spazio occupato di Lamezia. Chiaramente anche in questo caso la nostra condanna da questi microfoni si fa sentire forte e viva. Quindi c'è davvero tanto da dire sugli spazi sociali nella regione Calabria, perché vivono, esistono, ma il più delle volte sono ostacolati da mentalità di stampo fascista, ndranghetista, e da interessi privati che vogliono speculare su queste aree. Però la resistenza popolare molte volte riesce davvero ad avere la meglio, e siamo sicuri che succederà questo a Lamezia, che succederà questo a Cosenza, che succederà questo a Reggio Calabria. Quindi non ci resta che invitare nuovamente tutti e tutte gli ascoltatori di Fuori Onda Radio, gli ascoltatori di Indie Radio a questi momenti di incontro, il 24 dunque a Cosenza per l'apertura dell'Auditorium Popolare, 25, 26 e 27 a Reggio Calabria per la riapertura del centro sociale Angelina Cartella. E infine ricordiamo poi altri appuntamenti importanti che comunque avremo modo di illustrarvi ancora meglio, e quindi ci saranno anche tante altre iniziative importanti che si svolgono proprio in questi centri sociali. Dicevamo prima, per esempio, l'ACT Meeting di Cosenza 7, 8 e 9 giugno. E poi tante altre iniziative anche che accompagneranno l'avvicinamento a questa data. Infatti si prevede di svolgere in tutta la Calabria dei momenti di incontro e di dibattito, e soprattutto attività seminariali che avvicineranno all'ACT Meeting. Quindi 25, 26 e 27 anche, diciamo così, qualche nerd sarà presente a Reggio Calabria con una serie di seminari di avvicinamento all'ACT Meeting, ma anche il 3 presso un altro spazio sociale a Cariati, presso l'Associazione delle Lampare, i nerd che stanno le calabresi, cosentino, non sappiamo, i nerd che stanno lavorando all'Hack Meeting si troveranno anche in questo spazio collettivo per un'attività seminariale, per parlare soprattutto di quelle che sono le problematiche di una rete che oggi sempre di più non garantisce sicurezza e rispetto della privacy. Quindi vi invitiamo anche il 3 pomeriggio dalle 18 in poi nella sede delle Lampare a Cariati ad assistere, a partecipare a questo seminario a cui seguirà probabilmente, sì, sicuramente una bella cena sociale. E dunque, questi sono gli argomenti di oggi. Abbiamo parlato soprattutto di Calabria, e di spazi sociali e di ambiente, e questi sono temi molto importanti, mentre in Italia si discute di un'altra questione, una questione veramente molto importante, cioè Valeria Marini, Presidente della Repubblica. Ci complimentiamo con chi oggi ha votato Valeria Marini alla faccia del femminismo, come Presidente della Repubblica. A questo punto noi ci auguriamo che davvero Valeria Marini diventi Presidente della Repubblica Italiana, sarebbe davvero una grande svolta per il nostro grande e fantastico paese. E beh, insomma, siamo messi, insomma, proprio bene di fronte a vari problemi, a questioni veramente tragiche. C'è chi gioca a fare le votazioni, insomma, nel Parlamento. E parlando proprio di femminismo, davvero un'ultima riflessione, questo attacco veramente vile di questo probabilmente l'ex fidanzato, un avvocato avrebbe mandato un sicario buttare dell'acido sul viso della sua ex, un altro avvocato che ora rischia anche di perdere la vista. Ci auguriamo che il mandante di questo vilissimo gesto possa perdere a sua volta la vista o subire qualcosa di veramente molto brutto, e non ce ne vogliate se diciamo queste cose, però davvero non si può ancora oggi tollerare un qualcosa del genere, cosizzare degli esseri umani, ritenerli propria merce da distruggere a proprio piacimento, addirittura pagando un sicario per andare a buttare dell'acido sul viso di una persona. Veramente questo ce la dice lunga su quella che è la nostra società, una società fondata su falsi miti, su falsi ideali che perdono di vista sicuramente quella che è l'umanità, che è invece presente in ciascuno di noi, solo che molte persone spesso lo dimenticano. E quindi anche da questi microfoni, insomma, certamente non servirà a niente, lo sappiamo, però salutiamo questa giovane ragazza che ha subito davvero qualcosa, un attacco veramente indescrivibile, una violenza veramente inaudita che speriamo di non dover sentire mai più, ma siamo sicuri che simili avvenimenti continueranno a ripetersi. Bene, sono le 18:34 e abbiamo parlato quasi, sì, per mezz'ora in maniera continua, però dobbiamo dire che mentre prima eravamo molto abbioccati dal caldo, insomma, ora invece ci siamo un attimo ripresi. Ci spiace, come dicevamo prima, non poter mandare nessun tipo di musica, ma problemi tecnici, diciamo così, ci impediscono di farlo. Abbiamo perso proprio le pennette dove c'era la musica, non sappiamo neanche dove sono. E va bene. Comunque, insomma, speriamo da questi microfoni di continuare l'attività di Indie Radio su Fuori Onda Radio, e speriamo che questa radio possa avere una lunga, lunghissima vita, e anzi invitiamo chiunque voglia magari a interessarsi alla radio, a proporre anche dei programmi, sarebbe davvero qualcosa di molto interessante. Indie Radio, infatti, lo ricordiamo, è un programma che teoricamente dovrebbe avere asilo su due radio, Fuori Onda Radio e Radio Transizione di Fase ogni venerdì, ma negli ultimi mesi su Transizione di Fase, insomma, diciamo che non c'è stata una grande presenza. E ci auguriamo che anche, così come gli spazi sociali, anche le radio che sono degli spazi sociali, anche le radio del genere, possano avere in Calabria un respiro sempre maggiore. Bene, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma se non facciamo una pausa penso che moriremo sicuramente. E quindi io direi che è giunto il momento di controllare qualcosa. Vediamo se ci sono delle informazioni fresche di giornate, oltre che di giornate, diciamo, di minuti, vediamo un po', chissà, hanno eletto il sindaco, il come si chiama, il Presidente della Repubblica, vediamo, noi vogliamo Valeria Marini Presidente della Repubblica Italiana, ma insomma, vediamo un po'. Vediamo, stiamo controllando, anche perché abbiamo una postazione internet un po' traballante, giusto per mantenerci, no, in linea col nostro, con la nostra zallaraggine. Va bene, niente, io direi che alle 18.36 in di radio di oggi può avere fine. Ripeto, abbiamo avuto qualche problema tecnico, non ce ne vogliate, però vi ricordiamo poi gli ultimi appuntamenti, insomma 24 iniziativa, apertura dell'auditorium popolare a Cosenza, 25, 26 e 27 riapertura del centro sociale Angelina a Cartella, e poi tanti altri iniziative, ricordiamo poi, ma ne parleremo dell'Hack Meeting, delle varie iniziative, ricordiamo che l'Hack Meeting sarà che è un banchetto Hack Meeting, è un seminario Hack Meeting, sarà presente il 25, 26, 27 a Reggio Calabria, mentre il 3 ci sarà un seminario con un momento, diciamo, di socialità alle lampare di Cariati, e comunque anche cogliamo l'occasione per lanciare nuovamente l'appello, ovvero se siete un'associazione, un gruppo di persone interessate a queste tematiche, alle tematiche portate avanti dall'Hack Meeting, potete anche contattare l'Hack Meeting cercate il sito dell'Hack Meeting 2013, che in questo momento non ricordiamo bene come si chiama, però potete mandare un'email ad hmcs2013@autistici.org, e se volete ospitare un seminario di preparazione all'Hack Meeting, se magari siete in Calabria è meglio, ecco, contattate questa mail, cercate Hack Meeting 2013, il sito dell'Hack Meeting 2013, e prendete contatti. In più volevamo anche ricordare un'ultima cosa, che proprio sul sito dell'Hack Meeting potrete vedere varie foto e informazioni che riguardano anche l'area dove si svolgerà l'Hack Meeting, che lo ricordiamo è quella dell'ex officina delle ferrovie della Calabria di Cosenza. Ebbene, io direi che abbiamo davvero esaurito gli argomenti di oggi. Alle 18.38 vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo giovedì. Forse ci saremo, no, il prossimo giovedì forse non ci saremo, forse sì, forse no, o forse saremo su transizione di fase a streamare in diretta quello che accadrà a Reggio Calabria. Infatti il prossimo giovedì è proprio la festa della liberazione, il 25, ed è il giorno nel quale uno spazio a Reggio Calabria, cioè il centro sociale Angelina Cartella, verrà ripristinato e riaperto a tutti e tutte, quindi ci troveremo anche noi lì probabilmente, speriamo bene, e saremo lì, e quindi su Fuori Onda Radio non potrete ascoltare Indie Radio, magari chissà quanto sarete dispiaciuti di tutto questo. Comunque noi non ci saremo il prossimo giovedì, saremo a Reggio Calabria e non sappiamo se riusciremo a inventarci qualche diretta. Comunque seguite i nostri siti, i nostri canali di informazione e avrete tutte le informazioni necessarie sicuramente. Bene, è davvero tutto, io vi saluto, vi ringrazio per averci ascoltato e arrivederci alla prossima, che sarà alla prossima puntata, che sarà appunto fra 2 settimane, se va tutto bene. Quindi grazie per averci ascoltato, la prossima volta vi promettiamo che saremo con la musica e avremo una scaletta fatta bene. Grazie.